Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Vi ricordo che tutte le notizie che ascoltate in questo programma sono tratte dai nodi locali e internazionali del network Indie Media. In questo numero ci occuperemo della strage fascista di Firenze, poi leggeremo un breve report dalla Val di Susa, infine passeremo a Palermo dove si lotta contro le antenne e dove gli operai della Fincantieri sono nuovamente in cassa integrazione. Infine chiuderemo con una notizia che proviene da Cosenza dove il comitato Prendo Casa negli scorsi giorni ha occupato per 2 ore l'ufficio del vice sindaco. Buon ascolto su transizionedifase.org. Continuate intanto a seguire Indie Media Calabria ed Indie Media Italia. Apriamo con questa prima notizia veramente triste e sconvolgente, che comunque non ci sorprende più di tanto, visto che è da veramente molti e molti mesi, anni che andiamo predicando, diciamo così, la necessità di alzare la guardia sulle questioni relative al fascismo che avanza. Vogliamo dunque parlarvi di quella che è stata la tristissima strage che si è verificata a Firenze e accanto ad essa ricordiamo anche la strage di Torino, questo per rimanere poi solo in Italia. Questi sono gesti tipicamente fascisti, liberali, razzisti e xenofobi. Leggiamo dunque questo articolo centrale pubblicato sul sito di Italy Indie Media. Questo articolo in realtà, titolato Gianluca Casseri, non era solo uno squilibrato ma un razzista militante vicino a Casa Pound. Questo articolo in verità era stato pubblicato per la prima volta sul Newswire di Indie Media a Napoli e siccome era veramente molto significativo e molto lucido nella sua analisi, Indie Media Italia ha deciso all'unanimità di pubblicarlo sulla pagina centrale del sito italiano di Indie Media. Quindi leggiamo che i nomi in primo luogo di questi ragazzi che sono stati uccisi e che sembrano additati solo come extracomunitari, ma in pochissimi casi abbiamo sentito i loro nomi posti in rilievo, eppure sono le persone, gli esseri umani che hanno perso la vita in quel di Firenze per mano fascista. Sammo Du e Diop Mor, due nostri concittadini senegalesi, sono stati trucidati nella maniera più assurda e gratuita mentre lavoravano inconsapevoli nei mercati. Altri 3 migranti della stessa nazionalità, Mustafa Dieng, Sogur Mor e Mbege Cheike, sono feriti gravemente in 2 distinte aggressioni a colpi d'arma da fuoco. L'autore di questa mattanza si chiamava Gianluca Casseri. Alla fine, circondato dalla polizia, probabilmente si spara in bocca. I giornali online sottolineano la militanza fascista di Casseri e la sua vicinanza, internità, ai fascisti del terzo millennio di Casa Pound, così loro stessi si definiscono, aggiungiamo noi, che immediatamente cercano di prendere le distanze. Non potendo negare i rapporti, puntano a sminuirli, dichiarando che non si tratta di un iscritto ma di un simpatizzante, e ripuliscono il più possibile la rete dalle tracce di frequentazioni divenute all'improvviso imbarazzanti, ma soprattutto cercano di confinare la responsabilità del gesto nella follia di Casseri, in una dimensione astratta e inconsulta che screditerebbe ogni altro piano di lettura di questa tragedia. Ma non è così. Ovviamente Casseri è anche uno squilibrato come molti fascisti, aggiungiamo noi, uno che si mette a sparare per strada a vittime innocenti e inconsapevoli, ma il suo gesto trova incubazione e lettura dentro un fortissimo odio ideologico. Casseri è un razzista, fanatico e militante, lo dicono innanzi a tutti le sue azioni di oggi. Nella sua furia omicida, improvvisa o programmata che fosse, non spara a caso, spara ai neri. Casseri è un fascista molto attivo, lo dice la sua biografia, che non ha il segno dell'improvvisazione e neanche della banalità. A Pistoia, dove viveva, si era trasferito a Firenze da poche settimane, era ben conosciuto negli ambienti dell'estrema destra era il direttore editoriale di una rivista fantasy d'area, La Soglia, principalmente rivolta agli epigoni di Tolkien, uno scrittore adottato come narratore principe dell'immaginario neofascista. Casseri stesso pubblica con Enrico Rulli un libro fantasy, La chiave del caos, sullo scontro tra l'ordine e l'ombra, tra l'ordine e il caos, un classico del genere. Ma non si limita certo al fantasy, pubblica saggi antisemiti, è un acceso negazionista dell'Olocausto, scrive una biografia del nazifascismo del nazifascista Romualdi e molto altro. Casseri odia magari anche i froci e i giudei, ma probabilmente spara ai neri perché sente che le loro morti pesano di meno, perché ne è maggiormente ossessionato o perché si aspetta maggiore comprensione dalla sua comunità di riferimento, dai camerati. E infatti, dopo la sua morte, dalla cloaca dei siti dell'estremismo xenofobo, piovono i post di riconoscimento e gratitudine al camerata Casseri e al suo sacrificio per liberare l'Italia dall'invasione. Temi non dissimili da quelli dello stragista norvegese Breivik. E se la Norvegia non ha pensato di nascondere l'orrore dietro il rassicurante paravento dell'incapacità di intendere e di volere, è legittimo chiedersi se abbia senso darla invece per scontata in questo caso. Nella galassia dell'estrema destra, Casseri ha intrecci molto significativi con Casa Pound, e non solo perché è un dichiarato fan di Ezra Pound. Due volte viene identificato dentro manifestazioni di questa organizzazione, ma i rapporti non si limitano alla militanza di piazza. E di queste in queste ore il leader di Casa Pound, Iannone, lo descrive come un povero psicolabile, un isolato, un figlio debole di mente, abbandonato alla sua follia dallo Stato assente. E però deve essersene accorto solo ora, visto che prima lo trattavano quasi come un intellettuale d'area. Casseri infatti non solo presenta alcuni suoi libri nella sede di Casa Pound a Pistoia, ma più volte i suoi saggi sono ospitati sull'ideodromo, dove si trova la cosiddetta ricerca teorica dell'organizzazione, quello spazio che Iannone ha definito il posto dove corrono le idee, le nostre idee. Qua è dove prendono forma, dove trovano slancio, un laboratorio ad alta velocità. Queste sono le parole di un fascista, è un po', diciamo, ci fa senso pronunciarle, però andando avanti nella lettura di questo interessante articolo, leggiamo che tutti i giornalisti che improvvisamente oggi pomeriggio hanno cercato su Google qualche informazione sul camerata Casseri hanno potuto apprezzare diverse sue pubblicazioni sull'ideodromo, come quella in cui difende alcune milizie della Repubblica Sociale dall'accusa di torture ai partigiani. E altri autori, sullo stesso spazio, recensiscono la sua biografia di Romualdi. Tutti articoli che Casa Pound ha cancellato dal sito senza motivare e non senza una certa viltà intellettuale, che li caratterizza, aggiungiamo noi, ma che proprio grazie a queste ricerche è ancora possibile ripescare nella memoria cache di Google, almeno per un po'. Nei succitati blog, un camerata che significativamente si firma non conforme, cioè l'autodefinizione preferita dai militanti di Casa Pound, scrive: «È il prezzo che ha pagato un eroe, una situazione ormai figlia dell'esasperazione di chi ha creato questa società multietnica che è una bomba a orologeria pronta ad esplodere, perché la storia insegna che tante etnie non possono coesistere insieme». In pratica, una giustificazione morale a partire dalla falsa equivalenza tra società multietnica e società multirazzista, dietro la quale Casa Pound nasconde usualmente e ipocritamente il proprio razzismo. Sullo stesso sito dell'organizzazione, mentre il comunicato ufficiale prendeva le distanze dall'assassinio, retrocesso a isolato simpatizzante, la redazione doveva impegnarsi a cancellare diversi commenti di esaltazione del gesto eroico e disperato. Naturalmente nella narrazione pubblica dei neofascisti prende piede e lo farà sempre più, approfittando del diluirsi della memoria sociale, anche la classica teoria del complotto, magari giudaico-massonico, secondo cui i post di esaltazione dell'assassino sono tutti dei fake o dei troll e qualcuno ha magari plagiato la mente del debole Casseri per spingerlo all'eccidio, al solo scopo di screditare Casa Pound o addirittura per riproporre leggi a favore dei neri. È utile fare questa ricostruzione logica di notizie per lo più già pubblicate in rete dei giornali, non per esercizio inquisitorio, ma semplicemente per ricontestualizzare un semplice dato. L'hardcore, delle persone che si avvicinano a organizzazioni come Casa Pound non lo fa perché magari dice di essere anche lei contro le banche o cose del genere. Lo fa perché Casa Pound si autodefinisce fascista e sa di che cosa parla. Lo fa perché Casa Pound diventa un possibile riferimento, magari un po' meno stagionato e all'apparenza più presentabile di altri, dell'ultranazionalismo xenofobo, dell'odio ideologico e razzista verso il nero o il rom, dell'islamofobia, dello squadrismo militante contro le zecche comuniste, dell'elitarismo fanatico, del rancore sociale verso il diverso che corrisponde a una precisa identità culturale e si offre come interpretazione alternativa al disagio sociale. Quell'interpretazione che fa sfogare le lotte sociali in conflitti orizzontali, in guerre ai poveri. Un riferimento ideologico, politico e militante che spinge anche personalmente con quella di Casseri, con quella personalità come quella di Casseri, a slegarla come interlocutore mentre sta incubando il raptus, se vogliamo considerarlo tale, che è esploso oggi pomeriggio sparando a 5 uomini per la colpa di essere neri e stranieri. Il leader carismatico di questa organizzazione, Gianluca Iannone, ha dichiarato in pubbliche interviste di considerare Hitler un rivoluzionario e in precedenza militava nel movimento politico occidentale, sciolto nel 1993 in base alla legge Mancino per istigazione all'odio razziale. Sono elementi che possono essere banalizzati da una pubblicista ignorante o ipocrita solo in un paese come l'Italia che ha vissuto un lungo processo di normalizzazione dell'eredità fascista. C'è però un'altra cosa su cui è amaro riflettere. Dopo la strage, almeno a giudicare dalle immagini, la protesta dei cittadini senegalesi li ha visti in strada da soli o quasi. Questo non vuole essere certamente un appunto ai militanti antirazzisti che domani e poi sabato saranno in piazza a Firenze e, aggiungiamo noi, probabilmente in tutta Italia, per denunciare e contrastare il fanatismo razzista. Questa lentezza di riflessi della risposta sociale in generale è una questione che riguarda tutti noi autoctoni, che si è ripetuta spesso in questi anni. Per non andare troppo lontano da dove scrivo, queste sono le parole dell'autore di questo post, basta ricordare la distruzione violenta dei campi rom di Ponticelli, e aggiungiamo noi quella di Torino, è un'impermeabilità della sensibilità sociale che dice molto di quanto ci siamo tutti assuefatti al clima di apartheid, tanto da fare della xenofobia una rendita politica, tanto da portare un ministro xenofobo agli interni, tanto da vedere dirigenti di un partito di centro-sinistra, tra virgolette, partecipare ai pogrom contro i rom. 20 anni fa, dopo l'assassinio razzista di Jerry Maslow, ci fu la più grande manifestazione di solidarietà antirazzista e di rivendicazione di diritti per i migranti della storia d'Italia. Molte centinaia di migliaia di persone. La distanza fra quella larghissima indignazione sociale e il clima di oggi ci fa sentire per intera la partecipazione, la precipitazione della cultura sociale di questo paese. E la fibrillazione della crisi costringerà tutti a farci i conti, per andare in una direzione o nell'altra. E questo era l'articolo centrale che potete leggere in questi giorni su Indie Media Italia e che appunto propone un'analisi davvero molto lucida di quella che è stata la strage di Firenze, dove appunto due lavoratori, due persone che vivevano in Italia e che erano di origini senegalesi, sono morte. Altre tre persone di origine senegalese ma che vivevano e lavoravano in Italia sono ferite gravemente. Casa Pound era circondata dalle forze dell'ordine, per quanto ci è dato capire, e quindi alla fine è stata difesa rispetto alla rabbia, alla giusta rabbia e alla giusta indignazione di di tutte le persone che invece erano scese in piazza per manifestare. E questo è quanto. Comunque, vi ripeto, questa è solo una delle tante manifestazioni che si sono svolte in Italia. Certo, come recitava il post di Italy Indymedia, il post centrale, la manifestazione e la rabbia che un gesto del genere determina si sarebbero dovute esplicare subito ed immediatamente, sarebbe dovuto essere spontaneo per tutti quanti noi, e ce l'assumiamo forse come colpa. Anzi, una colpa vera e propria, scendere immediatamente in piazza come gesto naturale per protestare e per dire basta e per manifestare la propria, questa volta sì, forte e grande indignazione. Non è possibile morire per mano fascista. Caro, che fede. dopo questa ampia e doverosa pagina dedicata ai tragici eventi di Firenze e più in generale alla questione dell'antifascismo, una questione per la quale Indie Radio, così come Indie Media, si spendono e si spenderanno sempre, perché forse anche perché abbiamo abbassato la guardia, perché magari molti di noi pensano che non sia più di tendenza a parlare di antifascismo, tra virgolette, forse perché molti sedicenti militanti di sinistra hanno abbandonato anche la pratica antifascista, una pratica che è in primo luogo mentale. Proprio per questo motivo poi vediamo che questi fascisti del terzo millennio, di Casa Pound, così come di tante altre organizzazioni e gruppuscoli vari, cercano di guadagnare terreno, cercano di appropriarsi delle lotte della sinistra, di far proprie delle parole d'ordine che non sono assolutamente vicine al modo di vedere e di concepire la vita dei fascisti. Vediamo che sono impegnati in azioni di cosiddetta ecologia e vanno poi a parlare a favore dei termovalorizzatori, ad esempio, o dell'energia che secondo loro è pulita, ovvero dell'energia atomica, e vanno ad occupare case, vanno a protestare contro la crisi, contro i tagli, ma loro sono i primi servi di quel potere che ha determinato invece questa crisi, e forse sono così stupidi, anzi sono così stupidi che nemmeno se ne rendono conto, ma siamo stupidi anche noi, permetteteci di dirlo, se pensiamo che il fascismo non sia più una minaccia. Cambiamo comunque argomento e parliamo comunque sempre di qualcosa della quale ci siamo occupati da tempo e che comunque pone in discussione la libertà di scelta di una popolazione, ovvero parliamo della Val di Susa. Leggiamo dunque questo articolo, che è stato pubblicato sul Newswire di Italia Indie Media, e che recita, è scritto, scusate se leggiamo e sembrerà che siamo noi, ma in realtà è scritto in prima persona e cerchiamo però di rendere giustizia al testo che troviamo davvero interessante. Quindi si parla di questo report, breve report della Val di Susa, quindi cerchiamo di capire a che punto si è in Val di Susa. In questi giorni che ho passato in Val di Susa ho avuto la sensazione che qualcosa fosse cambiato, e non mi riferisco alle montagne bellissime che contornano la valle, né tantomeno alla forza vitale delle persone che l'abitano e la vivono più o meno quotidianamente, ma al meccanismo malato di uno stato fatiscente, corroso da speculatori e corrotti che si vogliono salvare i loro interessi individuali dalla cosiddetta crisi che loro stessi hanno creato e che ce la impongono come un sacrificio quotidiano. In Val di Susa un ulteriore giro di vite nel meccanismo della repressione è stato effettuato. Dal 16 agosto, data in cui si è allargato ulteriormente il cantiere, un'altra porzione di montagna è stata strappata dalle mani della natura viva e resa un deserto recintato dove corrono frenetiche solo le camionette ed i mezzi delle forze dell'ordine. Una porzione che non appartiene più alla valle, alle montagne, come è sempre stato, ma alla Repubblica Italiana. E se questi sono i suoi effetti distruttivi, ripenserei anche al concetto di Repubblica, che aggiungiamo noi deriva dal latino res publica, cosa pubblica, quindi come può essere una cosa pubblica se viene recintata e militarizzata. Chiudiamo questa nostra breve parentesi e riprendiamo il testo. Questa nuova categoria di appartenenza mi è stata data da un carabiniere, da un dirigente probabilmente, vedendo come impartiva ordini senza senso, ma permettetemi di raccontare la vicenda di questo incontro non desiderato. Era venerdì 9 dicembre, si era ritornati a pulire e a sistemare ciò che il giorno prima gli sgherri dello Stato avevano devastato, per cui concludere con un pranzo in baita tutti insieme, e sinceramente non si vedeva niente di così eversivo. Invece, per le cosiddette forze dell'ordine poteva essere un piano pericolosissimo, tanto che hanno aumentato tutti i controlli, chiudendo tutte le strade che in una qualche maniera potevano portare alla baita in clarea, chiedendo documenti a chiunque, anche a chi stava facendo footing, e costringendo le persone a fare la via dei sentieri nei boschi. Per fortuna non potranno mai controllare un'intera montagna e lei offre sempre dei passaggi. In questo clima da lotta partigiana arriviamo alla baita, che era già viva e le persone lavoravano energiche per risistemare l'ennesima distruzione che aveva soltanto un valore di sfregio, di umiliazione, da parte di questi signori in divisa, quando arriva una comunicazione che la polizia aveva bloccato delle persone all'ingresso della strada principale, la più agevolata, che da Giaglione scendeva direttamente in Baita. La risposta è stata immediata: partire in gruppo e andare verso il posto di blocco, che in Val di Susa sono frequenti ormai come gli alberi stessi. La scena che mi trovo davanti è a dir poco inquietante. Poliziotti già in tenuta antisommossa che impedivano il passaggio a un gruppetto di persone tutte disarmate. Tra loro c'era anche un ragazzo impossibilitato a camminare e per questo costretto sopra una sedia a rotelle. Ma la vicequestore della Digos di Torino, donna di gran sensibilità, gli impedisce il passaggio e gli dice, con un sogghigno malefico, di fare i sentieri per i boschi, come avevano fatto tutti i suoi compagni. Sui sentieri, nei boschi? Che cosa che sono così impervi e inaccessibili? La polizia di Val di Susa si comporta come camerati. È impensabile che un vicequestore si rivolga a un ragazzo in questa maniera. Ma in Val di Susa non è contemplata la normalità. Il tempo di uno scambio di parole per mediare in qualche maniera il passaggio di queste persone, già eravamo completamente circondati da poliziotti e carabinieri che non ci lasciavano più passare. Eravamo rimasti chiusi, intrappolati in pochi metri, senza poter andare avanti ed indietro. E se qualche dirigentello ci diceva che potevamo passare, all'altra parte non era arrivata la comunicazione, nonostante siano stati pochi metri, e quindi nel momento in cui ci avvicinavamo già ci stavano respingendo con gli scudi. Ma per fortuna che in Val di Susa le persone sanno essere anche ironiche su una situazione così assurda, e al massimo da parte dei notav bloccati usciva solo qualche battuta sull'accaduto. Ah, inutile che sottolineo che c'erano telecamere della Digos tutte intorno che ti puntavano il loro occhio nero dritti in faccia come se la cosa potesse intimorire. E una volta tornati in Baita, dopo un ottimo pranzo ci fu un'assemblea, ma sempre circondati dalla polizia che si trovava già disposta nei boschi. Si poteva sentirli addirittura insultarci se qualcuno si fosse permesso di dire qualcosa, e dalle telecamere della Digos che filmavano e filmano. Un pranzo e un'assemblea possono essere molto pericolose. Questa tracotanza e arroganza che sfocia nella vera e propria offesa da parte delle forze dell'ordine ha un gusto antico, un misto tra epoca fascista e medievale. Ecco cosa è cambiato in Val di Susa. Le forze dell'ordine escono adesso dal cantiere, hanno preso pieno possesso della zona, la militarizzazione della valle è evidente, posti di blocco a ogni angolo della strada, jersey che chiudono il passaggio, persone e mezzi di trasporto. La sensazione di sentirsi spiati continuamente, ma la gente non se ne cura, non ha paura. È la difesa del territorio quella che conta, il poter vedere ancora queste montagne maestose e verdi, e non un immenso cantiere che a detta di tutti è inutile e cela solo grandissimi interessi privati dei soliti burattinai e dei loro leccapiedi. La repressione sfocia sempre in un'azione violenta da parte dei tutori della legge, e mi viene solo un profondo senso di malessere quando per violenti vengono tacciati manifestanti che, come me, sono persone disarmate. Può essere un caschetto, un kawaii, un arsenale, come lo definiscono i media tradizionali e le testate dei grandi giornali nazionali? Come si possono definire queste cose armi quando i lacrimogeni vengono usati come proiettili, sparati all'altezza del viso dei manifestanti? Solo nella giornata di giovedì si sono contati 12 feriti per lacrimogeni, tra cui un ragazzo ha perso la vista di un occhio e un altro è stato ricoverato per un'emorragia cerebrale. E mi domando di nuovo chi sono i violenti. Io spero che mi riuscirà a cambiare il concetto di informazione e ci si liberi da questa informazione inquinata che racconta il contrario della verità. Tra blocchi stradali e checkpoint che per varcare un determinato limite necessita il permesso del questore. Un sapore sempre più antico di un'epoca dove le divise avevano le camicie nere e muri si alzavano a difesa di un cantiere che non c'è. C'è solo una spianata di terra senza vita. Quando prima dell'arrivo di camion, ruspe e quant'altro era di un verde brillante. I muri hanno sempre segnato i momenti più bui della storia, ed in Italia purtroppo se n'è alzato un altro. La domanda che mi riecheggia in testa da giorni è questa: si può continuare la situazione della Val di Susa? Si può accomunare la situazione della Val di Susa ai soprusi che stanno vivendo i palestinesi? Può essere la Val di Susa come Gaza? Per alcuni punti penso proprio di sì. La repressione ha sempre lo stesso volto e lo stesso fine. Continuiamo a parlare di un argomento relativo sempre alla questione ambientale, soprattutto alla difesa dei diritti di un territorio. E leggiamo dunque, questa volta dal Newsguardian di Media Calabria, una manifestazione, la prima che si è tenuta a Palermo, del comitato, del collettivo di Piazzale Tenente Anelli, che dice basta alle antenne della morte. Infatti un corteo partecipato dagli abitanti del quartiere e del piazzale in primo luogo, circa 200 persone tra bambini e famiglie, hanno sfilato attorno alle palazzine deputate all'installazione di nuove antenne ripetitori della rete mobile. Il quartiere sembra ormai aver capito la pericolosità di questi mostri elettromagnetici che silenziosamente e dall'alto sono causa di malattie incurabili e non è disposto a vivere e lasciar vivere i propri bambini in un ambiente malsano. Dopo la parziale vittoria delle scorse settimane, con l'ottenimento della sospensione dei lavori per l'installazione di un'antenna, il collettivo non si è per nulla accontentato e, oltre a mantenere alta l'attenzione sulle palazzine del piazzale, ha allargato alle zone adiacenti la sua lotta. Così, attraversandole in corteo, ha individuato altri due luoghi che attentano quotidianamente alla salute degli abitanti. Una palazzina ristrutturata e rimessa a nuovo, l'unica della zona, con sopra le antenne killer e nelle cui immediate vicinanze si sono registrati diversi casi di leucemia, e un giardino in cui è stato interrato dell'Eternit. Insomma, la lotta di questo pezzo di quartiere Santa Rosalia, partita dalla volontà di fermare i lavori per la costruzione di nuove antenne, sembra ora volersi riconquistare delle condizioni di vita salubri che le compagnie telefoniche e altri speculatori gli stanno già estorcendo e di certo non permetterà che altri possano estrarre ulteriore profitto sulla pelle di chi vive nelle palazzine. Rimaniamo sempre a Palermo, parliamo però questa volta di lotta per il lavoro e quindi leggiamo questo articolo pubblicato sul Calabria Indie Media che recita Fincantieri Palermo con l'anno nuovo cassa integrazione per tutti. Nei giorni in cui chiude definitivamente la Fiat a Termini, con gli operai abbandonati a un futuro incerto e nebuloso, una nuova tegola si abbatte anche sui lavoratori dello stabilimento palermitano di Fincantieri, che a partire da gennaio saranno, a meno di nuove commesse, tutti in cassa integrazione. Una condizione che potrebbe protrarsi per 2 anni a partire dal gennaio 2012. Un tema, quello della carenza di lavoro, che si era già dimostrato in passato una scusa capziosa utilizzato dal management Fincantieri per giustificare la ristrutturazione aziendale che con l'occasione della crisi sta tentando di attuare. E così commesse, fino a pochi giorni prima inesistenti, che improvvisamente per la mobilitazione degli operai si materializzavano o viceversa altre, date per certe che scompaiono misteriosamente. A peggiorare ulteriormente il quadro, la dirigenza dei cantieri ha annunciato 175 esuberi. Una posizione inaccettabile e che contravviene a tutte le promesse fatte e agli accordi stretti fin qui coi lavoratori. Un altro durissimo colpo che peggiora ulteriormente la condizione di chi già ed ormai da anni si trova a dover vivere nella precarietà determinata dal ciclico ricorso alla cassa integrazione. Ancora da sciogliere infine il nodo della regione Sicilia che tenta opportunisticamente di inserirsi nella vicenda, ma il cui ruolo nella ristrutturazione dei bacini di carenaggio non è ancora chiaramente delineato, contribuendo in questa maniera al clima caotico ed incerto, alimentato ad arte dalla dirigenza dei cantieri che si respira attorno alle vicende di questa realtà industriale. Come ultima notizia leggiamo un comunicato di Prendo Casa Cosenza che negli scorsi giorni ha occupato l'ufficio del vice sindaco della città Bruzia, Katia Gentile. Al disagio e all'emergenza abitativa dilaganti in questa città, l'amministrazione comunale ha pensato bene nelle ultime settimane di convocare un tavolo tecnico con prefetto, questore, carabinieri e ATERP per costruire un'azione comune contro le occupazioni abusive. Niente di nuovo rispetto alle politiche di solidarietà sociale millantate nelle campagne elettorali e negli incontri avuti con il comitato Prendo Casa. Nessuna novità nemmeno rispetto alle politiche che hanno caratterizzato le precedenti amministrazioni. Ai bisogni sociali si risponde con promesse e clientelismi e con un finto legalitarismo di facciata, dimenticando ad esempio che ci sono 7 palazzi ristrutturati con fondi per l'edilizia popolare ed assegnati all'Università della Calabria, che andrebbero immediatamente riportati alla destinazione d'uso legittima. Negli scorsi mesi Katia Gentile si era fatta promotrice di un tavolo sull'emergenza abitativa aperto ai comitati di cittadini sotto pressione del comitato Prendo Casa. Tavolo che venne richiesto e nuovamente promesso durante l'occupazione del Consiglio Comunale dell'ottobre scorso. In quell'occasione si criticava la proposta di Nitto Palma, Scopelliti e Mancini sul destinare Palazzo Cosentini occupato a residenza per prefetto, Presidente della Repubblica e Carabinieri. A oggi nessuna novità di rilievo se non consultazioni con gli apparati repressivi della città. Il senso di questi incontri è ben chiaro: risolvere la questione abitativa con i mezzi a loro più consoni, sgomberi e sfratti. Di tutta risposta le famiglie del Comitato Prendo Casa, che negli ultimi mesi sono stati promotori delle occupazioni di 2 stabili nel centro storico di Cosenza, hanno occupato per più di 2 ore l'ufficio del vice sindaco Katia Gentile a Palazzo dei Bruzzi, chiedendo delucidazioni rispetto al percorso che il comune ha intrapreso. Dopo 2 ore di blocco, l'assessore Gentile ha incontrato le famiglie, giustificando le precedenti udienze con le forze dell'ordine come preludio per l'apertura del tavolo con le parti sociali. Secondo le indicazioni date dal vice sindaco, il tavolo dovrebbe partire agli inizi del nuovo anno. A noi, conclude il comunicato di Prendo Casa Cosenza, le promesse non bastano più. Continueremo a vigilare sull'operato dell'amministrazione e a resistere nelle occupazioni. E poi si conclude con questo slogan: basta sfratti per una sanatoria sulle occupazioni abitative della città. E il comunicato è stato pubblicato sul Newsward di Media Calabria ed è datato 15 dicembre 2011. Staremo a vedere che cosa succederà nella città cosentina. Anche per questa sera Indie Radio finisce qui. Vi diamo nuovamente appuntamento a venerdì prossimo, sempre su radiotransizionedifase.org. Vi ricordo la replica sabato alle ore 20:30 circa, sempre su Transizione di Fase.